parole di Meloni sono irricevibili, sia dal punto di vista scientifico che politico. La manifestazione di ieri è stata una kermesse imbarazzante, anche perché per supportare le tesi che hanno basi esclusivamente ideologiche del governo della destra italiana sono stati portati, per dire, a parlare di cannabis due lobbisti americani dalla dubbia reputazione. È stata davvero una cosa che non si sarebbe dovuta neanche organizzare, che fra l'altro è stata organizzata quasi sciogliendosi la platea, per dire, io avevo chiesto l'accredito e mi è stato rifiutato con motivazioni burocratiche abbastanza risibili. Ma un messaggio del genere che conseguenze può produrre? Il messaggio è funzionale alla narrazione che serve a questo governo per continuare ad andare avanti, la narrazione di chi arriva e cerca di risolvere le cose. Appunto, Meloni ieri ha parlato di lassismo sulle droghe. Eppure noi ieri abbiamo presentato giusto alla Camera la mattina la 14ª edizione del Libro Bianco, che dimostra come in Italia c'è tutto fuorché lassismo sulle droghe. Noi abbiamo una presenza di detenuti in carcere per droghe che è il doppio, praticamente il doppio della media europea, è il 34% contro il 18% della media dei paesi dell'Unione Europea, ed è molto più alta della media mondiale, il 22%, e addirittura più alta di paesi come la Russia, che certamente Meloni non potrà accusare di lassismo sulle droghe. In Russia è il 29% dei detenuti in carcere per droga. E non c'è solo la parte penale, c'è anche la parte, diciamo, di sanzioni amministrative nei confronti di chi usa le sostanze. E dal 90 ad oggi, noi tra l'altro viviamo ancora negli anni 90 con la legge basata sul modello di consumo degli anni 80, per cui completamente diverso da quello che c'è oggi rispetto alle sostanze, per cui non c'è solo un problema, diciamo, di pene draconiane dal punto di vista penale rispetto alle condotte di spaccio, c'è anche un problema serio nei servizi. Comunque, dicevo, dal 90 ad oggi 1.400.000 persone sono state segnalate per uso di sostanze, 1 milione di queste per cannabis. Stiamo parlando di un'intera generazione, soprattutto giovani, che sono stati criminalizzati per comportamenti che non avevano alcuna conseguenza nei confronti degli altri. In un recente intervento tu hai detto che droghe leggere e droghe pesanti in comune hanno solo il pusher. Sì, perché fra l'altro questa narrazione del fatto che loro sono arrivati adesso e metteranno le cose a posto si scontra con i dati di realtà, ovvero che è stata proprio la legge Fini-Giovanardi, la legge che nel 2006 ha equiparato dal punto di vista penale tutte le sostanze, appunto tutte le sostanze e le droghe sono uguali, messo per legge, che ha di fatto unificato due mercati che prima erano sostanzialmente divisi, quello della cannabis e dei suoi derivati e quello delle altre sostanze. Oggi, grazie a quella legge, la cannabis viene trovata nello stesso luogo in cui si trovano tutte le altre sostanze, per cui l'unico reale contatto che c'è fra il consumatore e altre di cannabis ed altre sostanze è lo spacciatore. Il reale autore della legge Fini-Giovanardi, cioè di quel disastro che dal 2006 al 2014 fino alla dichiarazione di legittimità costituzionale ha riempito le nostre carceri, è proprio Alfredo Mantovano, l'attuale sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e delegato alle politiche antidroga. Le prove scientifiche, le evidenze scientifiche ormai da 40 anni dimostrano che non c'è alcun collegamento, alcuna droga di passaggio, in particolare la cannabis non lo è. È vero che molti di quelli che hanno cominciato a usare sostanze più pesanti può essere abbiano cominciato con la cannabis, non è vero il contrario, ovvero non tutti quelli che hanno usato la cannabis hanno usato poi altre droghe, ma è anche vero che ancora prima della cannabis l'accesso è al tabacco e all'alcol, per cui se questo ragionamento dovesse avere un senso logico, che non ha, bisognerebbe immediatamente proibire l'uso di tabacco ed alcol. Tra l'altro Meloni fuma e beve alcol, quindi ovviamente nulla contro chi fuma e nulla contro chi beve alcol, figuriamoci. Però sempre a proposito di politiche di contrasto, se non sbaglio fu la Direzione Nazionale Antidroga qualche anno fa a dire che il proibizionismo aveva fallito. Beh sì, c'è un problema, ovvero il nostro apparato repressivo è concentrato nel punire delle condotte che sono assolutamente innocue per la società. Si pensi alla caccia alle streghe dei coltivatori improprio di cannabis, sprecando risorse che potrebbero essere utilizzate per invece reprimere altri reati. La Direzione Nazionale Antimafia più volte ha segnalato come una regolamentazione legale almeno della cannabis avrebbe tolto non solo risorse al narcotraffico, ma avrebbe tolto del lavoro inutile alle forze dell'ordine.